Che effetto le fa vedere che stia litigando per capire quando partire? Brutto, no, decisamente brutto. Decisamente brutto e decisamente stonato, diciamo, con quello che possa essere la situazione in generale. Approfittare di questo per portarsi a casa ognuno il proprio vantaggio è una delle cose peggiori che possono capitare. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, io farei il parallelismo con quello che ha detto Tiziano Ferro. Non è che Tiziano Ferro ha bisogno di tanti soldi, ma chi gli monta il palco, chi gli fa i suoni e quant'altro, forse sì. Forse sì, forse sì. Solo tu sai superarmi. In questo momento abbiamo bisogno di una risposta, non per me, quasi 500.000 di persone che hanno acquistato biglietti per i miei concerti, penso alle persone che lavorano sul palco e dietro al palco, e quest'estate abbiamo diritto di sapere se si possono o no fare concerti, perché noi siamo bloccati. Non ti cercherò forse mai più. La data che io ho indicato sempre, il 4 maggio, è una data che dovremo confermare ancora nei prossimi giorni, quando avremo la certezza che sarà possibile, ma è una data che io spero di poter mantenere, ed è una data che però riguarda prevalentemente, anzi esclusivamente, gli allenamenti a porte chiuse. La luce che si accende e il mondo mi guarda, e in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo. Il calcio dà tanto lavoro e tanta gente è rimasta a casa, anche lì devono giocare a porte chiuse, ma devono giocare, punto. I giocatori, a parte essere individui da aiutare costantemente, ragazzi da aiutare costantemente, da proteggere, però anche c'è un fatto economico, loro sono patrimonio, e quindi molta attenzione nel rischiarlo, insomma. Che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. I veri portatori di interesse nel calcio sono i tifosi. Ci siamo fatti chilometri, migliaia di chilometri all'anno per seguire la nostra squadra del cuore. Spendiamo i soldi dell'abbonamento per vedere le partite alla televisione. Ma chi ci ha rimborsato questi soldi? Chi ci ha rimborsato l'abbonamento allo stadio? Nessuno. Ve lo immaginate un calcio senza tifosi? A voce piena, in ogni stadio c'è una storia. Eccoci qui, non siamo impazziti, continuiamo a occuparci di calcio, di sport, ma abbiamo pensato con Claudia Schiattone, che ringrazio, così come Miriam Lucchetti, Roberta Fresiani, Gianmarco Ferronato, abbiamo pensato che le parole di Tiziano Ferro andassero benissimo anche applicate al mondo dello sport e al mondo del calcio. In mezzo a questo dibattito, partire, non ripartire, giusto, etico, è semplicemente rispettare il business, o c'è anche l'esigenza di dare risposte che in questo momento cominciano a essere formate, si cercano, ma ancora non ci sono. E allora ne parliamo anche oggi, 800 24 00 24, perché voglio sapere che cosa ne pensate. Numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Carlo Genta lo abbiamo mandato in ferie un giorno, venerdì 17, ha preferito defilarsi. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, ciao, ciao. Saluto anche Alessandro Lucarelli, ciao Alessandro. Ciao a tutti, ciao. Buongiorno. Allora, chiedo ad Alessandro come stai vivendo questa situazione e anche questo dibattito. Ma la sto vivendo come tutti i cittadini italiani da casa, mi tengo informato, facciamo riunioni in videoconference con la società per rimanere aggiornati un po' su tutto, per capire un po' quelle che saranno le modalità di un'eventuale ripartenza, e quindi insomma siamo in contatto con i giocatori, abbiamo trovato anche questo accordo da qualche giorno, quindi insomma da casa, ma siamo sempre in movimento. L'accordo è quello del taglio di una mensilità di stipendio, e adesso ne parliamo dell'accordo del Parma, ma anche e soprattutto di come la pensa Alessandro Lucarelli, che è stato calciatore fino all'altro ieri, adesso è dirigente, quindi ci può raccontare come si ragiona con la doppia testa e con il doppio cuore. Pier? Ma sì, insomma, il ragionamento secondo me è quello che facciamo ormai da giorni, in maniera secondo me ormai quasi ripetitiva. La vita va avanti e si deve ragionare, cioè, un bravo dirigente in un momento come questo si deve porre il problema, il punto interrogativo su che cosa succederà dopo. Non può dire no, sto a casa in quarantena, fermo, zitto. Poi è ovvio che ci sono delle variabili che sono purtroppo sopra le nostre teste, quindi però ci deve essere la buona volontà. Ecco, sentivo le parole di Moratti nella nostra clip iniziale. Questo è un po' il tema, no? Cioè che tutte le parti dovrebbero genuinamente concorrere al bene comune. Il bene comune è provare a capire se ci sono dei margini per poter ricominciare e poi lasciare l'ultima parola ovviamente alla politica, al governo che ascolta la comunità scientifica. Però un calciatore deve avere voglia di giocare una partita, un telecronista deve avere voglia di fare una telecronaca, ovviamente in sicurezza, ovviamente non deve avere voglia di non lavorare. Ecco, questo credo che sia il punto di partenza. Poi se non ce ne saranno le condizioni, questo ovviamente ne prenderemo atto. Però che esista un indotto, che esista la famosa filiera che nel mondo del calcio italiano pesa più di 5 miliardi e che con l'indotto arriva a 15-16 miliardi in anno, quindi ha anche un valore economico e quindi sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, di famiglie, questo esiste, oltre a tutti i portatori di interesse, sentivo uno dei messaggi vocali, dei tifosi senza i quali questo gioco non esisterebbe, quindi bisogna provarci e ovviamente bisogna venirsi incontro, usare quella vecchia parola che può sembrare brutta, ma che brutta non è, che si chiama compromesso. Si chiama anche pragmatismo. Io vorrei sapere da Alessandro Lucarelli se non si trova un po' a disagio, ad esempio, nel dibattito e nel pensiero che hanno tanti, perché leggevo anche in queste ore un sondaggio per cui il 70% degli italiani non vorrebbe rivedere in campo il calcio di Serie A nelle prossime settimane, se non si trova un po' a disagio nella parte di quello che in fondo pensa semplicemente a far ripartire un mondo di viziati e di milionari. Ma io credo che non sia proprio questo il discorso. Noi siamo accanto, abbia l'interesse per Luigi prima, perché è un'azienda importantissima per lo Stato e tutto quello che genera dietro. Però non è che noi facciamo i capricci e vogliamo giocare per forza. Noi siamo a disposizione in questo momento. È il governo che decide se possiamo o meno riprendere a giocare. Sicuramente la FIGC, la Lega, il club stanno cercando di muoversi in anticipo, nel senso, se ci danno la possibilità di ripartire, noi siamo pronti, perché stiamo facendo questo e quell'altro, c'è un protocollo, indetto un comitato, un pool di esperti, no? Medici e scientifici, per farci capire se sempre ci sarà la possibilità di ricominciare, in che modo potremmo farlo. E quindi in questo momento noi siamo qua, che ci stiamo muovendo, cercando di farci trovare pronti. Però non è che noi vogliamo giocare per forza, anche perché adesso, e sono d'accordo anche con la marea di tifosi, no? Hanno espresso questo pensiero. La cosa più importante è la salute in questo momento, che va davanti allo sport, ci mancherebbe altro. Capito? E noi non viviamo su un altro pianeta che non abbiamo questa sensibilità nel capire che ci sono cose più importanti in questo momento. E quindi ricominceremo a giocare quando ci diranno di farlo, semplice. C'è un governo che decide, c'è un pool di specialisti che ci diranno se e come e quando soprattutto ricominciare. Questo, ripeto, è normale che non è che possiamo farci trovare pronti, che magari ci dicano ok, il 4 maggio si riparte, ok, e ora cosa si fa? È normale, dobbiamo muoversi in anticipo, sì, bisogna farsi trovare pronti. Sono ristretti. Poi c'è anche l'aspetto psicologico, capo, perché è chiaro che in questo momento, ma pure io ti dico che in questo momento il calcio non ha senso. Cioè, quando noi tutti i giorni abbiamo quel drammatico bollettino al quale non dobbiamo mai abituarci, che ci parla di tutti quei morti, eccetera, eccetera, è ovvio che fai pensi al pallone. Oggi giocare a pallone sarebbe ridicolo, soprattutto a porte chiuse. Però il tempo è una variabile molto veloce, questa storia è iniziata di fatto un mese, 10 giorni fa, magari fra un mese e 10 giorni cambiano le prospettive, ce lo auguriamo, cambia tutto anche psicologico, i morti ormai non ci saranno più, me lo auguro di cuore, magari si saranno trovati degli strumenti, cioè la vita va avanti e questa pandemia terribile con degli effetti ancora superiori rispetto a quelli di un conflitto per certi versi, l'unica speranza è che possa essere una cosa però più veloce, ecco, questo è l'augurio, è la speranza, ma come in tutte le altre cose dipenderà dalla scienza, alla fine sarà quello. C'è chi ci chiede di ricordare che la Federcalcio ha stoppato tutti i campionati giovanili dalla primavera in giù, ne parliamo anche di dilettanti fra qualche minuto, perché quando è stato declinato il piano di ripartenza del calcio italiano ci si è fermati alla lettera C, A, B, C, a scaglioni abbiamo letto, A sicuramente se si potrà, B vedremo, anche se il presidente del Benevento Vigorito, notizia di pochi minuti fa, ha detto anche in Serie B siamo pronti a ripartire, poi la C con tutti i suoi problemi. E poi c'è la base di tutta questa piramide che rischia di pagare il prezzo più alto di tutti. Tra qualche minuto ne parliamo con Cosimo Sibilia, vicepresidente della Federcalcio e presidente dei dilettanti italiani. Alessandro Lucarelli, sulla storia del taglio degli stipendi, ti viene da ragionare più da ex calciatore o da dirigente? Ma guarda, in questo caso sia giusto, come è stato all'interno della nostra società, fare un passo un po' tutti, no? Verso la scelta più logica, nel senso, da ex giocatore sai benissimo che mettere le mani a portafoglio è sempre difficile, l'ho vissuto in prima persona l'anno del fallimento, quando si percepiva la possibilità veramente di perdere tutto, e già lì facevo fatica a far capire ai ragazzi che c'era da togliersi un tot di soldi se c'era la speranza di poter andare avanti. E in questo caso, che magari diciamo il futuro non è così al momento nero, ho cercato come tramite chiarezza e con assoluta trasparenza di capire ragazzi quella che era la situazione attuale. E loro, devo dire, con grande sensibilità e intelligenza ci siamo parlati, ci siamo confrontati, abbiamo convenuto insomma questa situazione, soluzione di questa mensilità. Ci sottolineo il fatto che tutto questo si è svolto con la massima tranquillità, senza andare a aspettare magari che altri decidessero per i calciatori, no? Che possa essere l'AIC oppure lasciare tramite la Lega, niente, abbiamo voluto fare da noi con assoluta tranquillità e penso insomma questo sia il messaggio più positivo che sia uscito. Guarda, Alessandro fra le righe dimostra secondo me di aver capito una cosa alla quale facciamo riferimento qualche giorno fa, che piaccia o no è chiaro che la figura del calciatore è una figura che è sotto i riflettori e che si presta spesso anche a delle banalizzazioni o a delle strumentalizzazioni, no? È chiaro che sono lavoratori fortunati, penso che Alessandro lo sappia benissimo e nessuno lo nasconde questo, però sono comunque lavoratori, quindi poi nel momento nel quale si innestano determinate logiche di carattere sindacale, alla fine esiste un rapporto che deve essere un rapporto dialettico e per certi versi simile a quello di persone che guadagnano di meno. Io credo che lo stile nel chiudere appunto con una stretta di mano, senza dover andare a fare arbitrati, discussioni, cause legali, questo è molto importante. E tra le righe capisco, non mi sorprende che Alessandro è sempre stato da questo punto di vista molto sensibile, molto intelligente, che sia stato capito e questo i calciatori devono secondo me capirlo, nel senso che non si può, secondo me, ma vale anche per i presidenti, non si può tirare troppo la corda, cioè comunque c'è un paese in questo momento, c'è il mondo intero che sta soffrendo, che ha problemi pesanti e quindi si deve trovare una soluzione. Si devono dare anche dei gesti simbolicamente accettabili. E lo stile che per esempio c'è stato in questo caso nel risolver, poi certo dipende anche chi è di fronte, no? Nel senso, se quello che è di fronte ti dice mi dai il 40% o niente, amen, però lo stile non è un dettaglio, ed è importante nel rapporto fiduciario che esiste fra i fruitori, fra i tifosi e i calciatori stessi. Alessandro, se si riparte, quando si riparte, porte chiuse, magari partite ogni 3 giorni in periodo estivo, quanto sarà lontano dal calcio normale quello che vedremo? Sicuramente tantissimo, sarà una condizione non di normalità ma una condizione di eccezionalità, perché comunque sia va incontro innanzitutto a temperature, anche se giocheremo sicuramente di sera, ecco, penso a un'altra soluzione, però ci saranno delle temperature calde, ci saranno tante partite ravvicinate e quindi tutto questo comporta un rischio, però allo stesso tempo quando si decide di ripartire c'è cioè non deve essere un alibi questo, nel senso che vedo già magari interviste, però sai, tre partite alla settimana, cioè trovare eventuali sconfitte o cose. Se si decide di ripartire, tanto giocheremo tutte le stesse partite, tutte agli soliti agli stessi orari, e dovremmo abituarci a una condizione un po' diversa da quella che è normalità. Però ripeto, se c'è la voglia di tutto il sistema di ripartire, dovremo far fronte anche a queste, insomma, a queste necessità, ecco, il fatto di dover giocare in condizioni un po' più difficili. Ma bastano 20 giorni di allenamento oppure poi si azzerano le differenze fatte vedere nelle prime 26 giornate? Ma sicuramente ci sarà magari qualche squadra che sarà più fresca e qualcun'altra che magari ci metterà un po' di più a carburare. Sicuramente non è da fare un paragone con l'inizio di campionato, nel senso i ragazzi non sono mai stati fermi, manca lavoro sul campo, che poi è quello, diciamo, che fa la differenza. Manca tanto lavoro sul campo, manca la palla, però non c'è bisogno di fare una preparazione come se fosse luglio, ecco, c'è solo da levarsi un po' di ruggine di dosso, di rimettersi a lavorare, ripeto, soprattutto sul campo e con la palla, quando ci sarà la possibilità di farlo, e ricominciare a giocare, ecco. Poi ovviamente non si può lavorare sulla forza, no? Cioè si deve lavorare su una certa leggerezza a livello di preparazione. Fare la preparazione troppo pesante per 10 partite, certo. Capito? Quelle che sono. Conviene cercare di ci sono squadre, non ti chiedo i nomi, ma come tipologia che secondo te in questo contesto possono trarre giovamento? Forse le squadre un po' meno pesanti, mi verrebbe da dire? Ma sì, sicuramente le squadre che hanno magari una struttura più brevilinea, lineare, no? Sicuramente fanno meno fatica a ritrovare subito l'agilità, la velocità. Questo sicuramente fa differenza anche quando comincia il campionato, si vede alcune squadre che vanno subito forte. Sì, questo può essere un piccolo margine di vantaggio, però ripeto, ormai i calciatori sono macchine da guerra, sono allenati benissimo, sono professionisti esemplari, sicura tutto, che sia l'idratazione, l'alimentazione, insomma, non si lascia niente al caso, ecco. Quindi secondo me quando ci sarà la possibilità di ripartire, insomma, chi più chi meno, comunque saremo all'incirca messi abbastanza bene, dai. Secondo me conterà forse ancora di più del solito, già conta tanto, conterà la testa, quindi ci vorrà la capacità degli allenatori, perché è chiaro che è un'interruzione, un senso di incertezza. Non mi ricordo chi qualche giorno fa faceva un riferimento al tennis, sì, che è l'unico sport che è abituato a vivere, esatto, in questo tipo di situazione, e può essere un termine di paragone interessante. Qui sai, poi non sai nemmeno veramente se il campionato andrà avanti o non andrà avanti, quindi insomma è importante non staccare la spina, oppure magari riuscire a riaccenderla, ecco, questo è il punto di partenza. Forse chi ha delle grandi motivazioni, penso alla Lazio, all'Atalanta, per fare due esempi, potrebbe avere un giovamento, anche se poi in realtà sono le due squadre che erano più in forma prima della pausa, quindi ci potrebbe essere anche l'effetto contrario. Però ecco, la testa, soprattutto poi in partite a porte chiuse, quindi con un tipo di ambiente che secondo me inciderà, no? in maniera diversa rispetto alla normalità. Insomma, è un bel tema. Anche se ne parlavamo con Guidolin, poi salutiamo Alessandro Lucarelli, bisognerà stare attenti perché manca un terzo di stagione se si riparte, e quindi anche i 6, 7, 8, 10 punti che oggi magari possono esserci in classifica, possono sembrare un tesoretto sufficiente per non aver problemi di non essere coinvolti nella zona retrocessione, ad esempio, rischiano di essere un vantaggio aleatorio. Se si stacca la testa, perché manca un terzo di stagione, quindi se si riparte comunque vuol dire dover giocare ancora per 36 punti, che è una fetta importante di campionato. Grazie Alessandro. Grazie, ciao, a voi, un saluto a tutti. Grazie, ciao. Grazie ad Alessandro Lucarelli. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Allora, vi avevo promesso che parliamo della base della piramide, vi faccio sentire un altro pezzo del messaggio ieri del ministro Spadafora. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza anche tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere a praticare degli sport in sicurezza, anche in luoghi, in contesti dove lo spazio è poco. Lì dobbiamo inventarci delle formule, molte ce le state suggerendo anche voi, per cercare di contemplare l'esigenza sacrosanta della sicurezza per la salute di tutti quanti, col fatto che però si possa riprendere finalmente a fare sport a tutti i livelli. Quindi non parliamo soltanto di calcio, non parliamo soltanto di Serie A. Allora, questo ieri sera il ministro Spadafora, saluto Cosimo Sibilia, vicepresidente della Federcalcio e presidente dei Dilettanti Italiani. Presidente, buongiorno. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Nel sentire le parole del ministro Spadafora, che cosa le viene in mente? Che posso condividere le parole e mi rifaccio a quando il ministro disse circa 20 giorni fa in un'intervista, quando parlò di contributi al calcio di base, alle società sportive dilettantistiche. E quindi aspetto, avendo apprezzato diciamo questa enunciazione seppur giornalistica, aspetto nel concreto che ci sia questa vicinanza al calcio di base, alle società sportive dilettantistiche, perché va bene gli spazi, vanno bene gli impianti da migliorare, ristrutturare, però noi abbiamo bisogno soprattutto di questa vicinanza concreta che deve venire dal governo, deve venire dagli organi che possono fare questo. Di che numeri sta parlando, Presidente? Perché noi in maniera generale parliamo di dilettanti. Ci ha ricordato prima l'amico da casa che ieri la Federcalcio ha sospeso definitivamente l'attività giovanile professionistica, quindi parliamo della Primavera, della Beretti, tutti quei campionati, chiamiamoli minori, ma comunque giovanili. Quando parliamo del mondo dilettanti, di che numeri parliamo? Parliamo di 12.000 società, 65.000 squadre, oltre 1 milione di tesserati. Questi sono i grandi numeri della Lega Nazionale Dilettanti, del calcio di base, del calcio della formazione, del calcio dell'aggregazione, del calcio dei paesi, del calcio delle piccole comunità, dei piccoli borghi, delle grandi città. Partiamo da poche centinaia di abitanti per arrivare a Palermo, che ha centinaia di migliaia di abitanti, quindi dalla terza categoria al campionato nazionale dilettanti, quindi una realtà importante che svolge un ruolo, quello della Lega Dilettanti è un ruolo non solo calcistico e sportivo, ma è soprattutto un ruolo di aggregazione, certo. Svolge un ruolo enorme nel sociale e questo ci preme più di tutto. Pier? Presidente, ma l'orientamento complessivo, no? Noi raccontiamo ogni tanto le diatribe, le discussioni fra presidenti di Serie A con orientamenti diversi, qual è l'orientamento prevalente sul continuare la stagione da parte dei suoi presidenti, con i quali immagino sarà continuamente in contatto? No, io sono in contatto con i miei presidenti regionali, con qualche delegato provinciale, perché noi diciamo abbiamo una ragnatela enorme di presenze sul territorio, abbiamo nostri rappresentanti. E soprattutto nelle zone maggiormente colpite hanno delle difficoltà a poter dire che il campionato debba riprendere, però io sono perché quando ci sarà eventualmente la possibilità e soprattutto quando ci sarà la sicurezza dal punto di vista sanitario, io sono perché il rettangolo di gioco sia il giudice che deve dare il responso, cioè chi vince, chi perde deve passare attraverso il rettangolo di gioco. Mi rendo conto che tutto questo non è possibile, diciamo, deciderlo ora, perché i tempi li detta il coronavirus, purtroppo questa tragedia, certo, che ci stiamo portando avanti da un po' di tempo a questa parte. Quindi non siamo, perché ufficialmente, diciamo, lo dice il presidente della Lega Dilettanti, perché diciamo il giudizio sui campionati venga dato dal rettangolo di gioco. Voi volete ripartire? Noi vorremmo ripartire, assolutamente, assolutamente. Sì. E questo fa parte, diciamo, di quell'ottimismo della volontà che secondo me fa onore a tutti, no? Sai che mi viene una curiosità, Pier? Sì. Mi viene la curiosità di chiedere al presidente Sibilia che effetto gli ha fatto sentir declinare la ripartenza del calcio italiano fermandosi alla lettera C. A prima, poi la B, poi la C. Guardi, allora, io sono molto, come dire, attento a quello che... Sono in casa da 40 giorni, 45 giorni, e quindi leggo, sento, collego ogni giorno, abbiamo più volte riflettuto con il Presidente della Federazione, con le altre componenti. Io mi rendo conto che il calcio professionistico, diciamo, mi riferisco alla Serie A, è la locomotiva, diciamo, dal punto di vista economico, però esistiamo noi che siamo i dilettanti, esistiamo noi che siamo il calcio di base e il calcio del sociale, dell'aggregazione e quant'altro. Io penso che per raggiungere l'obiettivo di ritornare in campo la parola definitiva deve venire dalle autorità sanitarie e governative, quindi questo esercizio della previsione serve a poco, perché potrebbe essere smentita una previsione tra 10 minuti o 3 giorni. Questo è il punto vero, quindi non mi avventuro in previsioni, ma cerco di essere diciamo concreto e dare una risposta. Ma io dal punto di vista economico, perché la Serie A per esempio ha parlato di centinaia di milioni di danni qualora non dovesse continuare la stagione, e voi avete fatto, immagino, una vostra valutazione, quelli che sono i business plan, e questo lo volevo chiedere, perché lei ha sicuramente ragione, e io mi metto nelle condizioni. Noi abbiamo interpellato i nostri uffici, i nostri consulenti, e noi perdiamo circa 3.000 società se continua così. 3.000 società moltiplicato per le squadre, arriviamo a circa 20.000 squadre che non giocheranno più nei nostri campionati nel calcio dilettantistico. Quindi va bene discutere sempre della Serie A e di quant'altro, però insomma, io ci terrei anche molto. Anche a porte chiuse comunque ci sarebbe convenienza a ricominciare? Ma assolutamente, anche se diciamo porte chiuse non è quello che noi auspichiamo, però certo. Diciamo, a noi partecipano, tranne le realtà del campionato nazionale dilettanti e quelle dei campionati di eccellenza seguiti da migliaia di persone, diciamo i nostri campionati di terza, seconda, prima categoria, promozione, qualche centinaio o 50 persone, quindi per noi è un problema limitato quello della partecipazione o meno alle gare del pubblico. Quindi per quanto ci riguarda, insomma, tolte diciamo delle società, faccio un esempio il Palermo, ci vanno 20.000 persone, è ovvio, certo, però certo, insomma, certo. Non è il Palermo il problema. Cioè, con una battuta potremmo dire che ovviamente nelle serie minori del mondo del calcio dilettantistico si potrebbe addirittura tenere la distanza sociale, è più facile, no? Il distanziamento sociale. Una distanza sociale, certo. Naturale, direi. Certo, che non è una bella notizia in tempi normali, perché in tempi normali sarebbe bello. Normali, però voglio dire, poi c'è la lucidità delle persone, che io spero, sai, questo è tutto il famoso discorso su quanto sia più difficile ma anche più bello riuscire a combattere una pandemia attraverso la persuasione, attraverso la conoscenza, non attraverso l'imposizione. E la gente sta capendo, non è che nessuno si vuole ammalare, nessuno vuole infettare gli altri, quindi e poi credo sia interesse di tutti stare a 2 metri di distanza, girare con le mascherine, quindi certo, è chiaro che è una dinamica molto diversa da quella della Serie A e anche della Serie B. Abbiamo parlato prima delle parole del presidente del Benevento Vigorito, e che del resto Benevento sicuramente spera di poter ricominciare, anche perché legittimamente c'è da concludere una stagione che lo vede di fatto virtualmente promosso in Serie A. Siamo vicini alla borsa, faccio l'ultima domanda, poi lo salutiamo al presidente Sibilia. E cioè, come si riesce a mettere insieme tutto quello di cui abbiamo parlato, compresa la voglia, se ci saranno le condizioni di poter tornare in campo per chiudere questa stagione anche per i dilettanti, con i costi di una strada tracciata tra protocollo, controlli e misure di sicurezza che è già difficile da sostenere per parte della Serie B. E torniamo su quello che le dicevo prima, i nostri numeri sono numeri elevatissimi, noi abbiamo solo nel campionato nazionale dilettanti, che è quello di vertice della Lega Dilettanti, che poi è direttamente collegata al calcio professionistico, in quanto le vincenti, certo, vanno nella Lega Pro e quelle che retrocedono dalla Lega Pro vengono nel nostro campionato. Quindi noi abbiamo la necessità di essere sicuri dal punto di vista sanitario con gli esami che devono fare gli atleti, ma non solo gli atleti, i collaboratori, lo staff, i dirigenti che accompagnano la squadra, gli allenatori. Ecco, questo è il punto vero. Chi può garantire che ogni 4 giorni, come sento dire, bisogna fare questi esami? Chi può garantire dal punto di vista economico diciamo tutto questo e quanto costa? Stiamo aspettando le risultanze della commissione medico-scientifica della federazione per decidere anche noi che cosa fare, come farlo e soprattutto chi deve mettere le risorse per fare tutto questo. Grazie presidente. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto perché avete parlato del calcio di base e dei dilettanti, grazie tante. Grazie a lei presidente Sibilia. 800 24 00 24, adesso c'è la borsa, poi ripartiamo con le vostre telefonate. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche audio vocali. Il calcio va rispettato e va ridimensionato al 50%, chiaro? Me ne frego della domanda e dell'offerta. Ci sono anche le necessità degli uomini. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Allora, ci siamo, c'è Pierluigi Pardo, ci sono Antonio dalla provincia di Torino e Aldo da Pisa. Antonio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Vai. Soltanto una cosa, io sono un abbonato Sky da tempo e non ho volutamente disdetto i pacchetti calcio, eccetera, quindi in linea puramente teorica sto pagando inutilmente. Sono, non dico ben contento di farlo, ma insomma ritengo di fare la mia parte in questo senso per tenere in piedi tutto il meccanismo. Mi aspetto che quindi anche Sky, se tutti quanti facciano così, anche Sky non riduca il suo, come dire, la sua richiesta economica o la sua dazione economica contrattualmente stabilita con la società di calcio, quindi per fare in modo che, cioè far finta che stiano giocando, insomma, poi eventualmente estendere i diritti per evitare che ci sia un effetto slavina in questo senso che crea ulteriori problemi a tutti. È una declinazione di un argomento che è stato speso nelle scorse settimane anche a proposito delle tasse, chi può paghi, no? Sì, sì, ti posso dire che insomma, vabbè, che quando ho sentito, quando c'è stata questa cosa, c'era la possibilità di azionare, ho parlato con commercialista, cioè, questo secondo me è un concetto molto nobile e quindi mi associo, nel senso che chi può fare però questo è un fatto di sensibilità personale, ovviamente, e di possibilità, quindi, oltre e di che possibilità, di sensibilità. E di possibilità economica, è molto bello, è molto nobile quello che ci dice l'ascoltatore, e, come anche il fatto che Paolo Condò e altri, insomma anch'io, di non andare a chiedere se non è proprio strettamente indispensabile il contributo allo Stato in questo momento, se non hai particolari problemi. Però ripeto, questa è una forma, è un atto volontario molto nobile, il problema su base statistica c'è. Ma c'è anche un problema, secondo me, oggettivo, al di là della blindatura dei contratti, io onestamente non li ho letti, Bellinazzo ci diceva che i contratti comunque sono assolutamente blindati per quanto riguarda le società di calcio, però poi vale il solito discorso, cioè tu puoi anche avere Sky e DAZN, faccio un esempio, che ti devono pagare fino all'ultima partita anche se tu non giochi, però poi dopo quando vai a ridiscutere il contratto, Sky da sotto chiederanno uno sconto, immagino. Se c'è un momento di crisi, di emergenza, il sistema funziona se tutti hanno la possibilità di essere felici, di trarre giovamento economico, e quindi è proprio per questo che io credo che alla fine la soluzione più logica sarà quella di compromesso. Lo stesso discorso vale, secondo me, nel rapporto tra calciatori e società, cioè è ovvio che se c'è un'improvvisa perdita, un'improvvisa diminuzione degli utili, dei fatturati, perché comunque è successa una cosa che nessuno poteva immaginare, quello dei calciatori è un atto sicuramente di sensibilità nel ridursi in parte lo stipendio, ma è anche un atto, secondo me, quasi obbligato, quasi di intelligenza, perché poi se no va bene, però poi tra un anno sei in crisi. Sì. Ti trovi tutti fuori dal sistema. Sai che sto scoprendo dai WhatsApp che arrivano che non è una posizione solitaria quella di cercare di evitare di chiedere riduzioni laddove si può per provare a mantenere vivo il sistema. Aldo Pisa. Aldo. Noi abbiamo gran pubblico. Sì. Aldo. Sì, buongiorno e grazie della possibilità di poter esporre una questione che nessuno ne parla. Vai. Secondo me, andando incontro probabilmente anche a una finale 8 o Final Four nelle coppe europee. Sì, l'ultima ipotesi è la finale del 29 agosto della Champions. Sì, ma quella è anche un'ipotesi, non è neanche sicuro. Ma comunque è sicuro che purtroppo per almeno un anno si gioca a porte chiuse. Beh, e quindi anche questo non è sicuro, andate però e ritorno nelle coppe nazionali o europee, diventa veramente assurdo anche il gol in trasferta che vale doppio, visto che le porte sono chiuse. Quindi c'è comunque la possibilità di avere un'esplosione di partite che si vada, proprio perché magari la gara è secca e quindi è più difficile che si sblocchi la parità, oppure se il gol in trasferta non vale doppio, c'è il rischio di un'esplosione di partite che vanno ai supplementari e poi eventualmente ai rigori, cosa che io odio, perché i rigori li odio veramente, perché mi fanno anche star male dal punto di vista dell'emozione. Fisico. E non è il periodo. Allora io dico una cosa, ma non sarebbe meglio, finito i 90 minuti regolamentari, far battere subito i rigori e dopo i supplementari, con quattro vantaggi, uno meramente economico, che praticamente si allunga il brodo, si battono comunque i rigori, più tempo, più pubblicità, più spot, e vabbè. Seconda cosa, avremmo appunto i rigori che non dicono più l'ultima parola, c'è comunque poi mezz'ora per quello che ha perso i rigori di poter recuperare. È diabolico, Aldo, vai Piero. Stessa cosa, anche i supplementari sarebbero più interessanti, perché anziché traccheggiare molte volte abbiamo che fare traccheggia, ma quella che ha perso mi piace moltissimo. Che siamo ormai in quarantena, grazie, quindi ormai sì. Abbiamo raschiato il fondo della creatività. Però devo dire che mi piace. Quindi praticamente il principio sarebbe che chi vince i rigori, chi vince la serie di rigori, poi ha il vantaggio che se si rimane in parità durante i supplementari, ma lo sa prima. Sai che giro la proposta a Stefano Boldrini, corrispondente della Gazzetta dall'Inghilterra, grazie, che ci ascolta. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Perché a proposito di creatività, gli inglesi hanno anche detto che se ripartono, hanno lanciato la proposta delle 5 sostituzioni, che io credo sia qualcosa di molto giusta, concreto, ma hanno anche detto facciamo meno del VAR, e qui ho l'impressione che insomma ci abbiano un po' marciato sopra. Beh, il VAR qui non è mai stato amato. E quanto alle 5 sostituzioni, beh, penso che siano una proposta saggia, perché il campionato, se ripartirà, e qualcosa ne sapremo nelle prossime ore, perché è in corso o sta finendo addirittura una riunione qui a Londra in call conference dei club della Premier, in cui qualche cosa dovranno dire o decidere in merito alla ripartenza del campionato, e quindi comunque i tempi, come potete ben immaginare, saranno molto brevi, per cui il rischio di infortuni sarà ancora più elevato. Fare le 5 sostituzioni sarebbe saggio. Il problema è normativo, voi sapete che poi il calcio è uno strano giocattolo, per cambiare le regole o per fare delle variazioni in corsa si devono riunire saggi contro saggi, cioè non è un'operazione semplicissima, perché qualcuno già detto, beh, ma allora non è regolare, abbiamo fatto fino adesso il campionato con i tre cambi, e ora che facciamo? Lo facciamo con 5? Sapete, c'è sempre qualcuno che fa il pierino della situazione, però credo che in una situazione come questa sarebbe comunque una regola, diciamo, provvisoria molto utile, anche perché loro vogliono chiuderlo. Qualcuno dice entro il 30 giugno, però già vi posso dire che le cosiddette Big Six, le grandi sei del campionato inglese, sono opposte a questa. Cioè vogliono andare avanti anche oltre il 30 giugno. Esatto. Non solo, poi le Big Six, ad esempio, leggevo poco fa una dichiarazione del proprietario del Brighton, diceva la stagione, se va ripresa, va comunque conclusa come deve essere, cioè non è che la chiudiamo alla 35esima, se ripartiamo dalla 29esima arriviamo alla 38esima. Sì, e non si lascia il lavoro fatto a metà. A proposito di proprietari, sì, Stefano, con tutte le incognite però, voglio dire, cioè il problema di tutta questa vicenda qui, che vale per l'Inghilterra, vale anche per l'Italia, è che uno può anche decidere, va bene, ripartiamo i primi di giugno, finiamo, che ne so, il 10 agosto, facciamo le coppe, poi prendiamo 20 giorni di ferie per i calciatori e si ricomincia il 20 settembre di campionato, cioè tutto si può fare nella vita. Il problema è che qua c'è il virus di mezzo, cioè se ti prende un'altra botta c'è anche banalmente il tema delle quarantene, cioè quello che comunque alla fine per dare in questo momento, poi magari fra un mese avremo, e me lo auguro, una situazione farmacologica migliore, ma in questo momento se tu devi garantire la sicurezza, devi tecnicamente portare tutti i giocatori in un luogo vattato, isolato, e farli stare praticamente 2 mesi in ritiro, tutti in ritiro, perché ma poi continuano a scriverci tanti, ma il primo calciatore positivo mentre si gioca che cosa si fa? Io ho letto ieri con interesse l'intervista al professor Zeppilli, credo sulla Gazzetta dello Sport, e mi pare di aver capito che i controlli continui servono anche eventualmente per evitare che si fermi tutto alla prima positività, però non accade in altre attività che vanno avanti adesso e che riprenderanno, si spera però, da maggio. Voglio dire, il caso del positivo che sfugge ai controlli, perché il controllo magari l'hai fatto la mattina e quello si è positivizzato qualche ora dopo, che in un calcio d'angolo, sto ragionando per assurdo, non lo puoi, no? Togliere quello non lo puoi togliere, non lo puoi al 100%. Togliere. Non lo puoi togliere. A proposito di proprietari nella Premier League, chiedo a Stefano Boldrini che cosa sta accadendo a Newcastle. Ma Newcastle è in corso una trattativa che adesso stavo leggendo un giornale di Newcastle, la versione online, un quarto d'ora fa, insomma, una trattativa che potrebbe chiudersi entro la fine del mese. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita sta trattando con Mike Ashley, che è uno dei proprietari più detestati della Premier, l'acquisizione di questo club del nord-est dell'Inghilterra, che ha una storia molto datata ma comunque importante. Ha vinto 4 campionati, 6 FA Cup, una Coppa delle Fiere, quindi insomma è un club che c'ha un certo livello. Lo stadio è sempre pieno, quando hanno fatto pubblico la stagione pazzesco. Con Benitez era il pubblico quinto stadio, esatto. E oltre appunto al fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che si porta dietro la figura del presidente ereditario, che ha accostato, coinvolto nelle indagini per l'omicidio di un giornalista arabo al consolato di Istanbul, avvenuto nel 2018, esatto, si porta dietro anche comunque poi l'immagine di un paese che nelle classifiche dei diritti umani insomma non è certo ai primi posti. Quindi ci sono anche delle proteste da parte di organizzazioni come Amnesty International, che avvertono su quanto possa essere saggio portare nel calcio inglese in questo modo così dirompente il fondo sovrano dell'Arabia Saudita. C'è poi una donna, Amanda Stavley, che è un personaggio veramente da mondo inglese, ex amante del principe Andrea, il secondogenito della regina Elisabetta, broker finanziario, protagonista nel 2008 dell'acquisizione del Manchester City da parte dello Sheikh Mansour, sposata con un iraniano, solidi legami con il mondo arabo e panarabo, vive tra l'altro tra Dubai e Londra, e lei avrebbe in questa operazione verrebbe in possesso del 10% del pacchetto azionario. Il restante pacchetto azionario, 80 al fondo sovrano, 10 ad Amanda, 10 a due fratelli che sono la seconda famiglia più ricca di Gran Bretagna. Quindi diciamo che il Newcastle non cadrebbe malissimo, al di là di tutti non i ragionamenti malissimo, etici. Avrebbe molto denaro per fare mercato, si favoleggia già sul prossimo allenatore, è stato fatto anche il nome di Massimiliano Allegri. Insieme a quello di, leggo dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Pochettino, che in Premier League va sempre di moda. Pubblico pazzesco. Comunque io credo che il dato politico, poi salutiamo Stefano Boldrini, sia che la crisi che colpirà in tutta Europa, sta colpendo i club calcistici, potrebbe renderli aggredibili da chi i soldi continua ad averli. Si torna forse indietro di una decina di anni, quando c'è stato 10-15 anni, quando c'è stato il grande ingresso di capitali che venivano da Est soprattutto e che hanno inondato il calcio europeo. Grazie Stefano. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grazie a Stefano Boldrini. Dimmi Pier. Potrebbe paradossalmente essere anche un'opportunità. Io non dimentico le parole di Malagò proprio da noi una quindicina di giorni fa. Sono parole giuste che valgono sempre nei momenti di crisi, anche di crisi ovviamente drammatica e dolorosissima come questa. Cioè tutte le volte che c'è una turbolenza, che c'è una crisi e quindi c'è una ridiscussione, c'è sempre un'opportunità. E quindi io non escludo veramente. Il calcio sicuramente perde in questo momento in termini di fatturato sul breve periodo, però non è escluso che magari qualche piazza anche del nostro campionato possa essere più facilmente scalabile, contendibile, e quindi poi alla fine ci possa essere anche un vantaggio in prospettiva futura dal punto di vista della competitività. Nuovi investimenti. Ciao Piera, a lunedì. Ciao. A lunedì, traffico, torniamo, parliamo di Formula 1. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Parlate sempre di calcio, ma gli altri sport? Parliamo anche di altro, tranquillo amico, saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Parliamo anche di Formula 1 ad esempio, perché ieri ne ha parlato uno dei nomi pesanti del circus, ovvero Sebastian Vettel, videoconferenza stampa da casa sua, per dire che non vede l'ora di ricominciare anche a porte chiuse, che non è il momento di parlare di taglio degli stipendi dei piloti e che anche il rinnovo del suo contratto, che è in scadenza, andrà affrontato più tardi, a bocce non ferme in questo caso, ma quando i motori torneranno a ruggire. Formula 1 mi pare, Umberto, che navighi un po' a vista. Ma perché a vista un po' come tutto lo sport, un po' come tutti noi purtroppo, perché non passa settimana che non venga rinviata all'inizio del mondiale, insomma adesso si parla di luglio. Sai, la Formula 1 ha il vantaggio che l'anno lo può finire anche all'inizio della prossima stagione, insomma, perché così è nei piani che può ridurre il calendario in due giornate, però insomma da qui a vedere un inizio a porte chiuse ancora ce ne passa. I team si incontrano quasi tutte le settimane in videoconferenza, ma poi non si arriva mai ad un risultato, perché oggi non si può fare delle previsioni. Devi riportare comunque un 2.000-2.500 persone chiuse in un autodromo, perché anche a porte chiuse la Formula 1 muoverebbe così tanta gente, quindi il rischio, abbiamo visto in Australia, sarebbe enorme. Sì, il paradosso è che la Formula 1 è lo sport che è andato più vicino a fare qualcosa. È andato più vicino alla partenza. Hamilton poi ha risvegliato un po' tutti alla prima conferenza stampa stagionale dicendo cosa siamo qui a fare, poi sono arrivati i primi casi di coronavirus alla McLaren e tutto è stato giustamente sospeso. Sono state anche rinviate le regole che avrebbero dovuto rivoluzionare la Formula 1 del prossimo anno, sono state rinviate al 2022, giustamente, perché senza correre ci sono un sacco di team che non incassano denari e che rischiano di andare in crisi, perché non tutti stanno come la Ferrari che ha la possibilità. Abbiamo appena sentito le quotazioni di borsa, insomma la Ferrari sta bene perché ha comunque il portafoglio ordini pieno, anche adesso che non può produrre nulla, che la gente non pensa certo di ordinare una vettura. Ci sono team che rischiano senza i denari che arrivano dalla Formula 1 di chiudere, e quindi ha dovuto correre ai ripari limitando un po' le spese, e verrà fatto anche con i piloti, perché Vettel ha detto che poi dipenderà da quante gare avrà questa stagione, lui è disposto ovviamente a ridursi il compenso di quest'anno, e invece non è disposto a firmare un nuovo contratto breve, perché lui ha detto: io ho sempre firmato un contratto triennale come minimo e non mi sento vecchio, per cui se si arriverà a questo accordo, con cui siamo in dettagli con la Ferrari, io non lo voglio annuale, voglio un contratto più lungo. E questo, provando a far finta di essere in una situazione normale, che cosa significa in quello strano gioco di equilibri che è diventato Maranello da quando è sbarcato Leclerc, che è chiaramente il pilota non solo del futuro ma anche del presente? La Ferrari ha già fatto la sua scelta, insomma, quando ha fatto un contratto molto più lungo a Leclerc, e quando ha fatto capire che l'uomo del futuro è Leclerc. In questo momento, con Hamilton probabilmente destinato a restare in Mercedes, o punti su un giovane, però è già Leclerc, che è molto giovane, oppure ti tieni quello che potrebbe essere il migliore dei secondi. Insomma, Vettel in fin dei conti ha un unico problema oggi in Ferrari, che costa 40 milioni di euro per quello che è destinato a diventare il secondo pilota della scuderia, sono effettivamente troppi. Se no, dopo che tu hai fatto fare il secondo a Raikkonen per tanti anni, potresti far fare il secondo a Vettel, però ha uno stipendio decisamente diverso da quello che ha avuto in queste ultime stagioni. E giustamente Vettel dice: non è il momento di ragionare adesso a bocce ferme, a macchine ferme, fatemi vincere un paio di gare se ci riesco, e poi potrei avere un potere contrattuale evidentemente differente. Comunque vada a finire, mi pare, Umberto, sarà comunque una stagione non classificabile, ammesso che si parta. Avrà magari un vincitore, avrà qualche deluso, avrà qualche outsider che ha fatto bene, ma sarà una stagione di raccordo, non classificabile, che porterà poi alle rivoluzioni future. Se pensiamo che questa è la stagione in cui si sarebbe celebrato il 70° compleanno della Formula 1, che scade a maggio, però... Il regolamento dice che basterebbe 8 Gran Premi per fare un mondiale, però insomma credo che nessuno vorrebbe vedere un mondiale con solo 8 Gran Premi, come era all'inizio della storia negli anni 50, e che comunque la gente in questo momento abbia altro per la testa, altro cui pensare, anche se vediamo che quando questi si ritrovano a fare i Gran Premi virtuali, poi insomma la gente si diverte un po' a vederli, e lì abbiamo visto che Leclerc, che non aveva mai preso in mano troppi videogame, si è messo l'impegno e nel giro di un paio di settimane è diventato più veloce di tutti, è diventato bravo anche su quello, mentre Vettel giustamente dice: io ho tre figli a casa piccolini, mi devo occupare d'altro, mi divertirò un po' col videogiochi, ma non impazzirò e non andrò a fare delle gare. Non è che sarà che ha capito che anche lì non può più essere il numero uno, probabilmente ha capito. Questa generazione di ragazzi nati a pane PlayStation per lui e per Hamilton, un altro che non si è fatto vedere, la vita sarebbe molto dura, insomma. Dai lì, direttore, 800 24 00 24, Massimo da Mantova. Massimo, pronto, buongiorno. Io vado un po' fuori tema, volevo ritornare un po' sul calcio. Sì. Allora, io volevo rispondere al signor Sibiglia, presidente della Lega Dilettanti, che per conto mio, lui, dalle parole che ha espresso prima, lui si riferiva solamente alla Serie D. No, le dico subito. Lui si riferiva in generale al movimento dilettante, che chiaramente ha poi la sua vetrina nella Serie D. Sì. Le spiego una cosa. A livello, io ad esempio sono dirigente di una società di seconda categoria, giusto? Sì. Allora, no, parte qui in Lombardia, nessuna società della Lombardia, io ho fatto dei collegamenti streaming tra dirigenti, in Lombardia nessuno vuol più giocare. Soprattutto la Bergamasca, quelle lì, loro hanno anche le problemi in casa. Ma hai perfettamente ragione, ma allora, è chiaro. Le spiego una cosa. Il discorso che se non si gioca nei dilettanti l'anno prossimo non ci saranno più 3.000 squadre, le spiego. Le 3.000 squadre che saranno 6.000 non ci sono più da adesso. Le spiego subito. Noi abbiamo terminato a metà febbraio di giocare, abbiamo ancora 12 partite, non so come si faccia a far giocare i dilettanti a luglio. Vabbè, questa qui non è una follia pura. Non si farà. Ma non è neanche i giocatori che vengono a giocare, ma non a questi livelli. Poi, le dico una cosa, se noi smettiamo di giocare adesso, non è che falliamo, noi ci risolleviamo, perché non è che se noi non giochiamo... Tanto lo spiego subito. Massimo, poi ti devo. Sì, è un mondo lontanissimo da quello della Serie A. Massimo, hai perfettamente ragione. Io poi mi metto nei panni del presidente di un movimento che porta dalla Serie D a quello che tu stai raccontando. L'unico modo per riuscire poi ad ottenere anche qualcosa sotto forma di aiuto è cercare di tenere in un ragionamento tutto insieme. Ma poi è chiaro che sarà già tanto se tornerà in campo la Serie A con la Serie B e poi si cercheranno altre soluzioni a scendere. Allora, abbiamo finito il tempo. Io chiedo scusa a Luigi da Firenze, ma lo recuperiamo senza problemi lunedì. Saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore. Saluto voi, a presto, grazie per la convocazione. Alla prossima, ringrazio in redazione Claudia Schiattoni, in assistenza Miriam Lucchetti, in regia Roberta Frisani, ai montaggi Gianmarco Ferronato. Sono in quattro, ma sono tutti rigorosamente lontanissimi uno dall'altro. Lunedì torna Carlo Genta, buon proseguimento di giornata. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.